ci darem la mano, là mi dirai di sì. Vedi, non è lontano, partiam, ben mio, da qui. Cangerò tua sorte. Cristo, non sor pur forte, non sor pur forte, non sor pur forte. Vieni, vieni, là ci darem la mano. Vorrei, non vorrei. Là mi dirai di sì. Ben mio, da qui. Vieni, mio ben dilette, io cangerò tua sorte. Andiamo, andiamo, mio bene, a ristorar le pene, d'un innocente amor. Andiamo, andiamo, mio bene, a ristorar le pene, d'un innocente amor. Andiamo, mio bene, andiamo, le pene a ristorar d'un innocente.